vedo ferma in un tempo da ritagliare, messa a fuoco in una fotografia del prossimo album da conservare. Le ristampe no, non sono uguali mai, i contrasti sì, sempre quelli miei. Ogni giorno riguardo la vita mia, tutti i contesti da ricordare. Tutto muove mosso in una scia, nel mare dei miei sensi da percepire. Le opinioni no, non sono uguali mai, di riflesso cambio con gli anni miei. Hai fatto caso mai a quante volte guardi indietro il tempo e vedi strane vite gli altri in controcampo? Ho fatto caso mai appena in tempo a trovare, penso, il senso della vita insieme proprio quello mio. Sono potrei tentare, ho il biglietto di un treno per andare via, ma sui binari il destino è di restare. A certi viaggi no, non sono uguali mai, flash a tempo che non contrasterei. I miei volti no, non sono uguali mai, di riflesso cambio dentro ai giorni miei. Hai fatto caso mai a quante volte guardi indietro il tempo e vedi strane vite gli altri in controcampo? Ho fatto caso mai appena in tempo a trovare, penso, il senso della vita insieme proprio quello mio. Fatto caso mai a quante volte guardi indietro il tempo e vedi strane vite gli altri in controcampo? Ho fatto caso mai appena in tempo a trovare, penso, il senso della vita insieme proprio quello mio. Hai fatto caso mai a quante volte guardi indietro il tempo e vedi strane vite gli altri in controcampo? Ho fatto caso mai appena in tempo a trovare, penso, il senso della vita insieme proprio quello mio. Hai fatto caso mai a quante volte guardi indietro il tempo e vedi strane vite gli altri in controcampo? Fatto caso mai appena in tempo a trovare, penso, il senso della vita.